L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale torniamo a incontrare Anna Gerometta. L'avevamo promesso qualche tempo fa, siamo andati un po' più lunghi, avevamo detto 15 giorni, è passato sicuramente almeno un mese, probabilmente anche di più, ma comunque la rincontriamo e parliamo di politiche per l'aria, perché ci sono appuntamenti importanti in vista a Bruxelles. Noi abbiamo ospite in studio Anna Gerometta, che ricordo è presidente dell'Associazione Cittadini per l'Aria, ma siamo anche in collegamento con Bruxelles, dove c'è con noi Giulia Poliscanova, che fa parte dell'associazione Transport and Environment, quindi dice chiaramente il nome di che cosa si occupa questa associazione, di trasporti e ambiente, e cercheremo di presentarvi quelle che sono le prossime scadenze, che sono davvero ravvicinate, perché Anna, parliamo addirittura del 20 di dicembre, quindi siamo molto vicini. Che cosa si sta preparando per il 20 di dicembre? Sì, il 20 di dicembre, buongiorno a tutti innanzitutto. Il 20 di dicembre ci sarà una riunione importante a Bruxelles del Comitato Tecnico sui veicoli a motori, che dovrà decidere sulla proposta della Commissione di adottare dei test su strada per contare il numero di particelle che fuoriescono dai tubi di scappamento delle nostre automobili. Questa normativa effettivamente si inserisce, diciamo, nel filone che l'anno scorso ha visto, ai noi, raddoppiare i livelli di NOx ammissibili per gli Euro 6, e quindi proprio per l'intervento dei funzionari dei vari governi che hanno premuto in sostegno delle case automobilistiche e non della salute dei cittadini. E quindi noi temiamo molto, e questo il motivo del nostro essere qui oggi è proprio un appello per fare sì che effettivamente il nostro governo, chi andrà a Bruxelles il 20 di dicembre, manifesti una posizione che sia di supporto alla qualità dell'aria e non al risparmio delle case che fabbricano le automobili. In sostanza vogliamo che la proposta della Commissione, che è abbastanza, diciamo, ambiziosa e adeguata, venga adottata così com'è, perché se venisse diciamo diluita sarebbe sostanzialmente un pezzo di legislazione quasi inutile. Allora, Giulia Poliscanova, con la sua associazione, ovviamente segue da vicino queste trattative. Forse lei può farci un quadro generale, per quel che poi parliamo appunto più specificamente dell'Italia, ma cominciamo da un quadro generale di quello che sta accadendo a livello europeo. A seguito del Dieselgate, che è esploso circa un anno fa, abbiamo visto due principali iniziative normative in Europa volte a far sì che non si verifichino più scandali del genere. La prima e più importante è la messa a punto di un nuovo sistema di test. Per la prima volta i veicoli verranno testati su strada e non in laboratorio. Si chiama Real Driving Emission Test. Alcune parti di questo test sono già state messe al voto in precedenza. E ora, adesso, arriviamo alla data fatidica del 20 dicembre, quando i governi dovranno votare sui prossimi passi da intraprendere, compreso quello che riguarda le emissioni di particolato, che in Europa sono responsabili di quasi 500.000 di morti premature all'anno. È un inquinante molto serio, pericoloso. La seconda iniziativa, altrettanto importante, riguarda la riforma completa del quadro entro il quale si fanno i test, ovvero il procedimento di omologazione dei veicoli. Quindi non si tratta di cambiare un solo test, ma tutto il procedimento per testare i veicoli. La frequenza dei test, l'indipendenza dell'agenzia e di coloro che fanno i test, e via dicendo. Vivendo i negoziati dall'interno, abbiamo constatato che su entrambe queste riforme il governo italiano ha una posizione molto negativa, contraria al cambiamento. Ad esempio, è contro controlli indipendenti a livello europeo, è contrario a qualunque forma di supervisione delle autorità nazionali che si occupano dei test e che oggi danno implementazione alle norme in modo non conforme agli standard. È contrario al controllo delle agenzie di test. In generale ha quindi una posizione molto negativa che blocca il progresso dei negoziati nel Consiglio dell'Unione Europea. La nostra associazione ha condotto una ricerca molto ampia per analizzare tutti i risultati dei test che sono stati pubblicati dopo lo scandalo. Ci sono test inglesi, tedeschi, francesi, italiani e di organizzazioni indipendenti. Quello che è evidente è che il gruppo Fiat sta producendo alcuni fra i veicoli più inquinanti in Europa. Non parliamo di un particolare veicolo, ma della media dei veicoli Fiat prodotti dalla fine del 2014, che superano fino a 15 volte i limiti previsti dalla legislazione europea Euro 6. Vuol dire il 1500% delle emissioni di NOx. A questo punto crediamo che la posizione del governo italiano su questo tema sia indirizzata alla volontà di proteggere il gruppo Fiat, ponendo l'interesse commerciale al di sopra dell'interesse della salute dei cittadini. L'Italia è da sola su queste posizioni? Ci sono anche altri Stati membri che hanno posizioni così negative, come ad esempio i paesi dell'est europeo, in cui le politiche per l'aria non sono molto importanti sul piano politico e che stanno proteggendo così gli impianti produttivi sul loro territorio. Anche la Spagna ha avuto posizioni negative, ma sembra cambiare adesso. Quello che notiamo è che paesi che hanno problemi di inquinamento atmosferico simili a quelli italiani e che anche in molti altri ambiti sono simili all'Italia, ad esempio la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, hanno posizioni molto differenti da quelle italiane e le hanno in particolare su questo test che verrà discusso il 20 dicembre. Tra i paesi dell'Occidente europeo, l'Italia veramente balza all'occhio come quella che vuole rinviare e indebolire questa proposta normativa sui test. Chiarissimo, quindi la situazione non rosea, Anna. Certo, perché se fossimo gli unici in tutta Europa sarebbe diverso. No, infatti, ed è un po' quello che è successo l'anno scorso, quando l'Italia effettivamente aveva chiesto che il limite dei NOx, ed è stato confermato più di un mese fa dal relatore del governo italiano alla commissione EMIS che sta, diciamo, indagando su Dieselgate, l'Italia l'anno scorso ha chiesto che venissero triplicati i livelli dei NOx, sostanzialmente dicendo che volevano fare sì che il 60% dei veicoli già sulla strada rientrassero nei limiti esistenti. Questo da un lato, e dall'altro di non sottoporre le case, che questo era scritto nella posizione ufficiale del governo, che le case fabbricanti di automobili non venissero sottoposte ad ulteriori sforzi. Vessazioni, certo. Esatto. E quindi noi abbiamo, lo ripeto, l'ho già detto tantissime volte, due procedure di infrazione, una per violazione dei limiti dell'NO2, una per violazione dei limiti del PM10, che sono correlati alla violazione delle norme sulla qualità dell'aria, e allo stesso tempo, invece che remare per ottenere che l'aria si ripulisca, facciamo in modo di andare in Europa a chiedere un ammorbidimento e una sostanziale, diciamo, riduzione del livello di ambizione delle normative sull'aria. Questo è è qualche cosa che dobbiamo riuscire a modificare, dobbiamo riuscire a fare sì che il governo capisca che non è nell'interesse del paese il fatto di avere case fabbricanti di automobili che mettono su strada automobili che non sono controllate, perché ricordiamoci che il problema effettivamente è che la Fiat è l'unica macchina che viene omologata in Italia, quindi l'Italia e il Ministero dei Trasporti, che fa l'omologazione direttamente, deve effettivamente, fare sì che le auto omologate in Italia rispondano ai limiti. Per quanto riguarda quello che diceva Giulia, purtroppo noi abbiamo il rapporto che l'Italia stessa ha depositato alla Commissione EMIS per raccontare, illustrare le verifiche che sono state fatte in Italia su Dieselgate, ed è un rapporto che è veramente piuttosto imbarazzante per la Questi rapporti, forse possiamo chiedere a Giulia questo prima che lei ci debba così lasciare per questo collegamento, questi rapporti di cui tu parlavi sono, diciamo, pubblici, sono dati che noi possiamo, perché c'è anche un problema di trasparenza in tutta questa vicenda, di accessibilità dei dati al grande pubblico, della conoscenza. Loro come associazione li hanno perché è un normale accesso a questi documenti? Il governo ha fatto alcuni rapporti, ma contengono davvero pochi dati. Gli specialisti non hanno a disposizione molto su cui lavorare. I dati necessari per capire se c'è stata qualche manipolazione dei risultati provenienti dai test effettuati in Italia non sono nei rapporti, quindi non si può fare alcuna reale valutazione. Da sottolineare poi che il governo tedesco, dopo aver fatto dei test, ha denunciato che i veicoli Fiat disattivano il sistema di controllo delle emissioni NOx dopo 22 minuti, il che è illegale secondo la normativa europea, nella quale però, lo ricordo, è previsto un sistema di test che dura 20 minuti. Il governo italiano dice che ha controllato e non è vero che il sistema si disattiva al 22esimo minuto. Però noi non abbiamo visto alcuna prova di questo nei rapporti presentati al Parlamento europeo e alla sua commissione d'inchiesta. E non ci sono risposte adeguate o dati forniti ai membri del Parlamento per tranquillizzarli. Quello che sappiamo è che le auto Fiat sono state testate con lo standard dei 20 minuti e che quindi è impossibile sapere come si comportano oltre quel periodo di tempo e quindi a 22 minuti. Tutte le informazioni che abbiamo oggi sono inadeguate e raffazzonate. È impossibile da presentare al pubblico con dati verificabili. Allora, dicevamo Anna, tiriamo insieme le conclusioni di questa vicenda. Cosa si può fare? Cosa state chiedendo come cittadini per l'aria con altro consumo in questo caso? Sì, più di un mese fa siamo andati al Ministero dei Trasporti per far presente questi problemi, per far presente le responsabilità del governo italiano, sia per quanto riguarda il Dieselgate e quindi il ritiro dei veicoli che non fossero stati omologati correttamente, sia la necessità che la posizione del governo italiano su questi due temi importantissimi, i test su strada che verranno in discussione il 20 di dicembre e la nuova procedura di omologazione, risponda a criteri di trasparenza, di efficacia, e che quindi venga comunque sia resa pubblica e condivisa con i cittadini. Certo, ed eventualmente discutibile con i cittadini. Abbiamo poi scritto al Ministero confermando tutte le nostre richieste, chiedendo ufficialmente al governo italiano di darci conto di quale sarà la posizione il 20 di dicembre, ma non abbiamo ricevuto risposta. Abbiamo rinviato la lettera una settimana fa al responsabile della negoziazione, non abbiamo ricevuto risposta. Dobbiamo ricordarci che le politiche che riguardano l'ambiente devono essere trasparenti. C'è la convenzione di Aarhus che stabilisce che i cittadini hanno diritto ad avere conoscenza di quelle che sono le politiche adottate dagli organi pubblici in tema di ambiente. Quindi il fatto che il governo su questa legislazione importantissima non ci risponda avvalora i nostri timori. Noi proseguiremo tra poco parlando delle conseguenze sulla salute della qualità dell'aria. Lo faremo con degli esperti. Intanto, Anna, noi ci salutiamo per il momento, grazie per essere venuta qui anche oggi e grazie per tenerci aggiornati su questi argomenti. E grazie a te di darci questo spazio che è molto importante. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati, seconda parte dell'altro pianeta. Nella prima abbiamo sentito le perplessità, chiamiamole così, di Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l'Aria, e Giulia Poliscanova dell'associazione Transport and Environment. A Bruxelles Giulia sta seguendo l'andamento delle trattative sulle nuove disposizioni in materia di test sulle auto e non ci ha portato buone notizie, notizie confortanti per quel che riguarda la posizione dell'Italia, che punta a quanto pare un po' troppo al ribasso, sia sulla qualità dell'aria che respiriamo, sia sulle emissioni dei veicoli che vengono prodotti ed omologati in Italia. Insomma, sembra il governo non volere misure troppo restrittive in materia. Ieri, tra l'altro, dopo che abbiamo sentito Giulia, è uscita la notizia dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti di 7 stati membri accusati di non avere istituito sistemi sanzionatori per scoraggiare i produttori di automobili dal violare la legislazione in materia di emissioni inquinanti o per non aver applicato sanzioni in caso di violazione della legge. Non c'è l'Italia tra questi 7 paesi, ci sono invece Germania, Lussemburgo, Spagna e anche Regno Unito, tra gli altri. L'Italia non c'è perché non ha ancora consegnato tutti i dati richiesti dalla Commissione per poter fare le sue valutazioni, quindi se entrerà in se arriverà una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia sarà più avanti e quindi dobbiamo aspettare. A questo punto però diamo il benvenuto a Francesco Forastiere, epidemiologo, specialista del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio, perché con lui vogliamo affrontare un altro tema, che è quello delle conseguenze che queste emissioni che escono dalle nostre macchine hanno sulla nostra salute. Benvenuto Forastiere. Buongiorno a tutti. Che cosa accade? Un veicolo su strada ha delle emissioni, questo lo sappiamo tutti perché lo sentiamo dire. E poi che cosa fanno queste emissioni? Certo. Allora, il tema è questo, che le emissioni sono di un veicolo, ma poi quando i veicoli non è uno, ma sono 10, 100 o come nella realtà di Roma un milione o 2 milioni, è ovvio che queste emissioni sono responsabili del quadro di inquinamento atmosferico che abbiamo in questo momento nelle città italiane e non solo italiane ovviamente. Le emissioni sono responsabili di 2 inquinanti importanti, che sono ben conosciuti tra l'altro. Da una parte le particelle sospese, i cosiddetti PM10 e PM2,5, sono le polveri fini, e dall'altro un gas che è rappresentato dagli ossidi di azoto, sono un complesso di gas, che formano in atmosfera il biossido di azoto. Ora, questi 2 componenti, le polveri e il biossido di azoto, sono delle componenti tossiche, sono delle componenti che sono dannose per la salute della popolazione. E la percezione da parte della popolazione, della gente, su quanto sia dannoso l'inquinamento è molto ma molto piccola, molto ma molto debole, ma anche da parte di chi fa la politica ambientale in generale. E questo ce lo dice chiaramente l'Unione Europea, ce lo dice l'Agenzia Europea per l'Ambiente, quando sottolinea che l'inquinamento atmosferico è responsabile nel nostro paese, ma anche in altri paesi europei, di decine di migliaia di morti premature, e sono morti premature a causa delle malattie cardiovascolari, delle malattie respiratorie e dei tumori, specialmente il tumore polmonare. Quindi la singola emissione di un'auto è piccola cosa, ma quando mettiamo insieme tante auto, e queste tante auto sono soprattutto auto diesel, veicoli diesel, abbiamo un quadro di inquinamento atmosferico, un quadro compromesso delle città. Per cui i veicoli diesel, che pure per un certo periodo sono stati molto, diciamo, di moda, molto diffusi, anche perché un po' meno costosi nel momento in cui si andava a fare il rifornimento, inquinano chiaramente di più e non si riesce a raffinare, diciamo, le loro emissioni per renderli meno nocive. No, in questo momento il problema più grande dell'inquinamento atmosferico per quanto riguarda il traffico ovviamente e i veicoli è rappresentato dai veicoli diesel, e questo è un problema specifico dell'Europa perché l'industria automobilistica ha scelto come scelta di mercato il diesel nella situazione europea. Ora, il diesel ha un quadro emissivo molto più grave delle altre auto, ovviamente più delle auto elettriche o ibride o a benzina, ed è responsabile sia di inquinamento di polveri fini, ma soprattutto della formazione degli ossidi di azoto. Il tema degli ossidi di azoto è un tema molto importante, perché molte delle città italiane non riescono a stare nei limiti di legge, a rientrare nei limiti di legge per quanto riguarda il biossido di azoto, proprio a causa dei veicoli diesel. Ossidi di azoto sono i cosiddetti NOx, sono loro? Esatto, e sono i cosiddetti NOx. Allora, nelle nostre città, immagino che dipenda poi da luogo a luogo, ce n'è più di uno o più di un altro, probabilmente anche a seconda delle, non solo della quantità di auto, ma anche della conformazione geografica. Si parla spesso, esatto, della pianura padana. Esatto. Sì, la situazione italiana ovviamente è molto variegata, ma questo dipende anche dalle condizioni climatiche. La pianura padana ha delle condizioni climatiche che non permettono la dispersione degli inquinanti, ma come la pianura padana esiste per esempio nel Lazio la Valle del Sacco, l'intera provincia di Frosinone, che è la Valle Padana del centro Italia. Queste sono situazioni in cui la dispersione degli inquinanti non è possibile, ma anche all'interno della stessa città ci sono delle zone che sono più inquinate e delle zone che sono meno inquinate. Questo grazie alla conformazione urbana. Ci sono ovviamente le situazioni in cui la conformazione urbana è fatta di strade alberate, di strade in cui gli inquinanti possono essere dispersi, invece delle zone in cui esistono dei canyon e quindi la possibilità che l'inquinamento ristagni. Noi possiamo in qualche maniera intervenire, oltre che cambiando il parco auto e magari rendendo la regolamentazione più restrittiva, no? Per i produttori, in modo che se ne emetta di meno. Sicuramente l'aumento delle aree verdi fa bene alla salute, fa bene alla città, riduce l'inquinamento atmosferico, quindi questa è una strada. L'altra strada è quella ormai ben indicata dagli organismi europei. Esiste la necessità della limitazione drastica dei veicoli privati, esiste la necessità del trasporto pubblico, e il veicolo privato quando è in circolazione deve essere un veicolo pulito. Ora, in questo momento i veicoli diesel non sono veicoli puliti, quindi c'è un problema generale delle emissioni dei veicoli diesel, quindi vanno a poco a poco limitata la circolazione di questi veicoli. Ma stavo pensando che in questo fine settimana iniziano i primi provvedimenti, no? Le prime misure di restrizione al traffico per troppo inquinamento nelle città. Quelle, come diciamo sempre, sono misure un po' di corto respiro, cioè non è il tipo di limitazione del veicolo privato che servirebbe. No, quelle sono i cosiddetti provvedimenti emergenziali, perché ci troviamo nelle situazioni, come è successo a dicembre dell'anno scorso, in cui l'inquinamento è salito molto nelle città italiane e probabilmente succederà nei prossimi giorni. Quelli sono provvedimenti di emergenza che ovviamente servono a stabilizzare la situazione di inquinamento. È come io dico sempre, è come quando in una stanza le finestre sono chiuse, si chiede, se ci sono dei fumatori, si chiede ai fumatori di non fumare. Ma al di là degli interventi di emergenza abbiamo la necessità di ripensare, di ristrutturare completamente la circolazione nelle città, di limitare il veicolo privato e di avere un grande sviluppo del trasporto pubblico. Dunque, lei vive a Roma, giusto? Sì. Che è una città che ha grande bisogno dello sviluppo del trasporto pubblico. Ma se ne parla da 30 anni, ma mi sembra che i passi in avanti sono stati modesti. Che c'ha molto traffico privato, i livelli di inquinamento della capitale, che si dice sempre c'ha queste correnti d'aria, così, però in realtà non è così respirabile l'aria di Roma. No, la situazione a Roma negli ultimi 10-15 anni ovviamente è migliorata nel complesso, anche perché le emissioni dei veicoli di oggi sono sicuramente migliori di quelle del passato, questo è indubbio, quindi abbiamo sicuramente a Roma un'aria migliore, ma pur essendo un'aria migliore abbiamo una situazione di inquinamento che continua a essere preoccupante. Noi, la nostra stima come Dipartimento di Epidemiologia è di circa 1000 decessi prematuri all'anno causati dall'inquinamento atmosferico a Roma. Quindi Roma si trova in una situazione comunque di emergenza sull'inquinamento atmosferico. Quindi, come abbiamo letto nei giornali in questi giorni, dire che a Taranto c'è l'aria come a Roma, in realtà non si fa un complimento e ne si tranquillizzano gli abitanti di Taranto. No, è un paragone assolutamente infelice. Se Taranto è come Roma, vuol dire che la situazione è molto grave. Cosa che peraltro voi avevate studiato, tra l'altro lei in particolare, ho visto alcuni rapporti che lei aveva firmato e studiato nei mesi scorsi, di cui magari un'altra volta parleremo. L'ultima curiosità, perché anche lì tutti gli inverni si ritorna, riscaldamento privato e traffico auto. C'è uno che è peggio di un altro o anche lì insomma dobbiamo semplicemente... No, sicuramente ce n'è uno che è peggio di un altro ed è il riscaldamento a legna e a pelle. Quella è una modalità di riscaldamento estremamente inquinante che va regolamentato e va ridotto. La ringrazio molto, davvero. Buona giornata, a risentirci. Grazie. Ci fermiamo qui, grazie a Francesco Forastiere del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci seguito, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto.